Madame Letizia ci disse che aveva una sorpresa per tutti noi. Un regalo di nozze per Giulia? Si informò Susanna, perché Madame Letizia non aveva ancora fatto alcun regalo a Giulia. Certo, ella è spaventosamente povera, ma avrebbe potuto farle almeno un lavoro a mano, penso io. Ma Madame Letizia scosse il capo, sorrise misteriosamente e disse: Oh no! Noi ci lambicavamo il cervello su quel che lei potesse averci portato. Poi si seppe cos'era: un nuovo membro della famiglia Bonaparte, il fratellastro di lei. Uno zio che si chiama Fesch, appena trentenne ed ex parroco. Certo, questo zio Fesch non è un martire, e perciò in questi tempi anticlericali si è ritirato dalla religione ed è diventato uomo d'affari. E fa dei buoni affari? Volli sapere. Ma Madame Letizia scosse il capo con un'aria compassionevole e fece intendere che questo suo fratellastro accetterebbe volentieri un posto nella ditta Clary se Stefano volesse interessarsi di lui. Lo zio Fesch, in persona, comparve poco dopo. Aveva una faccia tonda e lieta, un vestito frusto ma pulito, baciò la mano a Susanna e a me e lodò il nostro liquore. Poi arrivarono loro, gli altri. Per prima la carrozza con le rose bianche mezzo sfiorite e ne discesero Giuseppe e Giulia, mamma e Napoleone. Nella seconda vettura stavano Stefano, Luciano e lo zio Somì. Giulia e Giuseppe ci corsero incontro. Giuseppe si buttò tra le braccia di sua madre e tutti gli altri Buonaparte si precipitarono su Giulia. Poi lo zio Fesch abbracciò la nostra mamma, che non aveva la più lontana idea di chi potesse essere, e il nostro zio Somì mi scoccò un bacio sulla guancia e si diede a palpeggiare Elisa. E tutti i Clary e i Buonaparte formarono un groviglio inestricabile e offrirono il destro a me e a Napoleone di baciarci lungamente e a dovere, finché qualcuno accanto a noi tossì indignato. Stefano, naturalmente. A tavola, la coppia degli sposi era fiancheggiata dallo zio Somì e da Napoleone, mentre io mi trovai incuneata tra zio Fesch e Luciano Bonaparte. Giulia aveva le gote rosse per la grande agitazione, le lucevano gli occhi e per la prima volta in vita sua si poteva dire veramente graziosa. Subito dopo la minestra, lo zio Fesch fece risuonare il suo bicchiere perché, come ex prete, sentiva un irresistibile bisogno di pronunciare un discorso. Parlò lungamente e con grande serietà, e riuscì anche molto noioso. Dopo l'arrosto, Stefano fece un discorso che fu breve e brutto, e dopo lasciamo in pace Giulia e Giuseppe. Già eravamo arrivati alla meravigliosa torta di marzapane con frutta candita di Maria, quando Napoleone scattò in piedi e, invece di battere delicatamente sul suo bicchiere, urlò: Silenzio per un momento, prego. Sussultammo, come coscritti, spauriti. E Napoleone, con poche frasi incisive, dichiarò che era felice di poter prendere parte a questa festa di famiglia. Ma questo, disse, non lo doveva affatto alla provvidenza, bensì al Ministero della Guerra di Parigi, che di colpo, senza alcuna spiegazione, l'aveva rimesso in libertà. Dopo ciò fece una pausa per far intendere che, come figlio tornato alla sua casa e già creduto perduto, si sarebbe aspettato di essere considerato da più di quel che in realtà non era stato, perché fino a quel momento tutti si erano occupati esclusivamente degli sposi. Dopo questa pausa espressiva, mi guardò e io seppi ormai che cosa stava per succedere. Avevo una grande paura di Stefano. E perciò, in questo momento nel quale le famiglie Clary e Buonaparte si trovano riunite ad una festa comune, voglio comunicarvi che la voce si fece sommessa, ma tutti erano così silenziosi che si poteva chiaramente intendere come tutti tremassero per la commozione, che questa notte ho chiesto la mano di Mademoiselle Eugenia e che ella ha consentito a diventare mia moglie. Tutti Buonaparte proruppero in un uragano di congratulazioni e a un tratto mi trovai tra le braccia di Madame Letizia. Ma io guardavo mia madre. Mamma sembrava aver ricevuto una mazzata in testa e no, lei non era affatto contenta. Volse la faccia dalla parte di Stefano e Stefano si strinse nelle spalle. Nello stesso momento Napoleone, con in mano il suo bicchiere, gli si accostò e gli sorrise. Ed è proprio strano il potere che Napoleone esercita sugli uomini, perché le labbra sottili di Stefano si dischiusero, egli fece una faccia contenta e toccò il bicchiere con lui. Paulette mi abbracciò e mi chiamò sorella. Monsieur Fesch gridò qualcosa in italiano a Madame Letizia e Madame Letizia, tutta contenta, gli rispose: Ecco! Credo che le abbia domandato se avrò una grossa dote come quella di Giulia. Nella commozione e agitazione generali, nessuno aveva badato a Gerolamo e il minore Bonaparte poté rimpinzarsi per quanto ce ne stava e anche per qualche cosa di più. Improvvisamente udii Madame Letizia gettare un grido e la vidi che stava trascinando fuori Gerolamo, il quale era diventato bianco come la ricotta. Condussi madre e figlio in terrazza e là Gerolamo prese a trasformarsi in una fontanella e a vomitare incredibili quantità di commestibili. Poi si riebbe, ma purtroppo non potemmo più prendere il caffè in terrazza come era in programma. Giulia e Giuseppe si congedarono tosto da noi e montarono nella loro carrozza infiorata per recarsi nella nuova casa. Noi li accompagnammo fino alla porta del giardino e io posai il braccio intorno alle spalle di mamma e le dissi che non c'era motivo di piangere. Poi vennero serviti ancora liquori e dolci e Stefano fece intendere con discrezione allo zio Fesch che non gli occorrono altri impiegati nella ditta poiché ha già promesso a Giuseppe di assumere lui e forse anche Luciano. Da ultimo tutti Bonaparte se ne andarono e rimase soltanto Napoleone. Passeggiamo qua e là per il giardino e lo zio Somì, che compare soltanto nell'occasione delle nozze o di funerali, si informò della data del mio matrimonio. Allora, per la prima volta, mamma si fece seria e veramente energica. Si rivolse a Napoleone e gli appoggiò con gesto supplichevole ambo le mani sul petto. «Generale Bonaparte, promettetemi questo soltanto. Aspettate a sposarvi fino a che Eugenia abbia 16 anni. No?» «Madame Clary», sorrise Napoleone, «non io devo decidere, ma voi stessa, Monsieur Stefano e la signorina Eugenia». Ma mia madre scosse la testa. «Non so che cosa sia, generale Bonaparte, voi siete ancora tanto giovane, eppure ho l'impressione...» Si interruppe, lo guardò e gli sorrise mestamente. «Ho l'impressione che tutti si pieghino sempre ai vostri desideri, almeno nella vostra famiglia e, da quando ci conosciamo, anche nella nostra». Per questo mi rivolgo a voi. Eugenia è ancora troppo giovane. Vi prego, aspettate finché abbia 16 anni. Napoleone prese, senza dir verbo, la mamma di mamma e se la portò alle labbra. E io sapevo che quella era una promessa. Già il giorno seguente, Napoleone ricevette l'ordine di recarsi in Vandea, agli ordini del comandante in capo generale Hoch, e di assumere il comando di una brigata di fanteria. Io me ne stavo raggomitolata nell'erba al caldo sole di settembre e guardavo lui che, pallido per la collera, camminava su e giù e mi rovesciava addosso un fiume di parole per farmi intendere che razza di porcheria gli avessero combinata quei signori di Parigi. In Vandea, per braccare un pugno di aristocratici rimpiattati, un pugno di nobili morti di fame con i contadini loro devoti e fanatici. «Io sono uno specialista d'artiglieria e non un gendarme!» mi urlava. Correva avanti e indietro, con le mani intrecciate dietro la schiena. «Non mi accordano il trionfo di un consiglio di guerra, preferiscono seppellirmi in Vandea, come se fossi un colonnello maturo per la giubilazione. Mi tengono lontano dal fronte di guerra, mi condannano all'oblio!» Quando la collera lo infiammava, i suoi occhi avevano dei lampi gialli ed erano trasparenti come il vetro. «E allora tu puoi dare le dimissioni?» dissi sottovoce. «Col denaro che ha lasciato papà per la mia dote posso comprare una piccola casa in campagna e forse anche un po' di terra insieme, se sapremo amministrare saggiamente». Si fermò di colpo e mi guardò. «Oppure, se quest'idea non ti va, potresti forse nella ditta con Stefano», aggiunsi in gran fretta. «Eugenia, sei pazza? O dici sul serio che io dovrei stabilirmi in una fattoria e allevare dei polli? O nella bottega del tuo signor fratello a vendere dei nastri di seta?» Non volevo offenderti. Pensavo soltanto che sarebbe una soluzione». Rise, aspro, scrollandosi tutto ostentatamente nel ridere. Una soluzione per il miglior generale d'artiglieria francese. Ma lo sai o non lo sai che io sono il miglior generale di Francia? Poi riprese a correre su e giù senza più far parola. Improvvisamente disse: «Domani monto a cavallo e parto». «Per la Vandea?» «No, per Parigi. Parlerò con quei signori del Ministero della Guerra». «Ma questo Voglio dire, mi sembra che nell'esercito sia una cosa molto seria quando qualcuno non obbedisce a un ordine, no? Certo, molto seria. Se uno dei miei soldati rifiuta di obbedire a un ordine, lo faccio fucilare. Forse anche mi faranno fucilare quando arriverò a Parigi. Condurrò con me Junot e Marmont. Junot e Marmont, i suoi aiutanti personali dai giorni di Tolone, bighellonavano ancora per Marsiglia e si consideravano la sorte di Napoleone come sorte loro. Puoi prestarmi del denaro? Accennai di sì. Junot e Marmont non hanno di che pagare le loro camere. Come me, dal giorno del loro arresto non hanno più ricevuto lo stipendio. Devo riscattarli dal loro albergo. Quanto mi puoi prestare? Avevo risparmiato per la sua uniforme di gala. 98 franchi erano nascosti sotto le camicie da notte del mio cassettone. Dammi tutto quello che hai, disse lui, e io corsi in camera mia e presi il denaro. Egli intascò i biglietti, poi li tirò fuori di nuovo, li contò con cura e disse: Così, io ti sono debitore di 98 franchi. Poi mi afferrò per le spalle e mi strinse a sé. Vedrai che riuscirò a convincere tutta Parigi. Devono darmi il comando supremo in Italia. Devono. E quando parti? Appena avrò liberato i miei aiutanti. E non dimenticare di scrivermi spesso. Scrivi al Ministero della Guerra a Parigi. Di là mi sarà spedita la posta al fronte. E non essere triste. Avrò molto da fare e devo ricamare i monogrammi del mio corredo. Egli annuì con fervore. B, è sempre B, Madame Generale Buonaparte. Poi sciolse il suo cavallo, che con grande dispetto di Stefano aveva legato alla cancellata del giardino, e partì verso la città. Quel piccolo cavaliere sulla cheta strada della villa sembrava così meschino e solitario. Parigi, 12 mesi dopo, Frutti d'Oro, anno terzo. Sono scappata di casa. Non c'è cosa peggiore dello scappare di casa. Da 2 notti a questa parte non ho visto un letto. La schiena mi duole tanto perché sono stata per 4 giorni nella carrozza di posta. Le vetture di posta hanno delle orribili molle e non ho denaro per il viaggio di ritorno. Ma non mi occorre, visto che sono scappata di casa. Non c'è più da tornare indietro. Sono arrivata a Parigi 2 ore fa. Faceva già sera e nella luce del crepuscolo tutte le case sembravano uguali. Case grigie, l'una accosto all'altra, senza giardino davanti, case, case. Non avrei mai creduto che Parigi fosse così grande. Nella nostra carrozza di posta, io ero la sola che veniva a Parigi per la prima volta. Il signor Blanc, che ha l'asma e che è salito 2 giorni fa nella nostra vettura per venire a Parigi, dove ha affari di commercio, mi ha accompagnata fino a una carrozza di piazza. Ho fatto vedere al cocchiere il biglietto su cui avevo scritto l'indirizzo della sorella di Maria. Il cocchiere mi ha preso gli ultimi soldi ed è stato molto sgarbato con me perché non ho potuto dargli la mancia. L'indirizzo era giusto e, sia lodato il cielo, i parenti di Maria, che si chiamano Clapin, erano in casa. Abitano in una casa di seconda fila nella Rue du Bac. Non ho la più lontana idea del quartiere di Parigi nel quale si trova la Rue du Bac. Non è molto lontana dalle Tuileries, credo, perché siamo passati davanti al palazzo e l'ho riconosciuto dai disegni che ne avevo veduti. Mi do continuamente dei pizzicotti nel braccio per essere certa che non sto sognando. Sono proprio a Parigi. Ho visto davvero le Tuileries e sono proprio scappata di casa. La sorella di Maria, Madame Clapin, è stata molto gentile con me. Dapprima era molto confusa e continuava ad asciugarsi le mani nel grembiale perché io sono nientemeno la figlia dei signori di Maria. Ma poi ho detto che mi trovo a Parigi segretamente per sbrigare una certa faccenda e che siccome non ho denaro, Maria mi ha assicurato che probabilmente, per farla breve, la sorella di Maria ha smesso di essere imbarazzata e mi ha detto che avrei potuto pernottare in casa sua e se avevo fame e fino a quando pensavo di rimanervi. Io le ho detto che avevo fame e le ho dato la mia tessera del pane perché, dopo l'ultimo cattivo raccolto, il pane è severamente razionato e il mangiare è terribilmente caro. Quanto tempo pensavo di rimanere, questo non lo sapevo. Forse una notte, forse due. Mi diede da mangiare e poi tornò a casa Monsieur Clapin, il quale fa il falegname e mi ha detto che il loro alloggio si trova nella parte posteriore di un antico palazzo nobiliare. Il palazzo è stato confiscato, ma a causa della crisi degli alloggi, il comune ha fatto ricavare dei piccoli appartamenti nella parte posteriore dell'edificio e li ha affittati a famiglie numerose. I Clapin sono una famiglia più che numerosa. Sul pavimento si aggiravano carponi tre bambini piccoli e altri due sono arrivati correndo dalla strada e hanno chiesto da mangiare. Nella cucina, dove abbiamo mangiato, sono stese ad asciugare tante fasce che si ha l'impressione di trovarsi in una tenda di beduini. Subito dopo la cena, Madame Clapin ha dichiarato che voleva uscire un po' a passeggio con suo marito e che l'occasione le capitava così di rado perché doveva starsene sempre a badare ai bambini, ma adesso che c'ero io, lei avrebbe messo i bambini a letto e se ne sarebbe andata fuori tranquilla. I bambini vennero ficcati a due in letti separati e il più piccolo fu messo in una culla in cucina. Madame Clapin inalberò un cappelluccio con una piuma di struzzo un po' malandata. Monsieur Clapin si versò un intero sacchetto di cipria sugli scarsi cernecchi e così salparono insieme. Di colpo mi sentii tremendamente sola e abbandonata in questa smisurata città. Poi incominciai a rovistare nella mia valigia per trarne fuori alcuni oggetti a me noti e cari e sentirmeli tra le mani. All'ultimo momento avevo ficcato nella valigia il mio diario. Per un po' ho scorso le pagine indietro e ho riletto tutta la storia passata. E adesso, con una penna rotta che ho trovato sull'armadio della cucina accanto a una polverosa bottiglia d'inchiostro, tento di raccontare perché sono fuggita di casa. Da quando ho scritto l'ultima volta nel mio diario è trascorso un anno intero, ma nella vita di una vedova temporanea, voglio dire di una fidanzata rimasta sola perché il fidanzato è a Parigi, non succede mai nulla di interessante. Stefano mi ha procurato della tela di batista per i fazzoletti e le camicie da notte, del damasco per le tovaglie e della tela di lino per la biancheria da letto e ha detratto dalla mia dote le somme occorrenti. Io ho ricamato tanti bi slanciati l'uno dopo l'altro e mi sono punta le dita. Io ho fatto visite alternate a Madame Letizia nel suo scantinato e a Giulia Giuseppe nella loro piccola, graziosissima villa. Ma Madame Letizia non sa parlare d'altro che dell'inflazione e del rincaro e di Napoleone che già da tanto tempo non ha più mandato quattrini. Invece, Giulia e Giuseppe si guardano sempre fissi negli occhi e dicono certe cose che nessun estraneo riesce a intendere, ridacchiano e mostrano di essere spudoratamente felici, ma anche un pochino stupidi. Tuttavia sono andata molto spesso a trovarli, perché Giulia ha sempre voluto sapere che cosa mi scriveva Napoleone e in cambio Giuseppe mi faceva leggere le lettere che Napoleone mandava a lui. Purtroppo abbiamo tutti l'impressione che per il mio fidanzato a Parigi le cose si mettano molto male. È già un anno che lui, con i suoi due aiutanti e con Luigi, all'ultimo momento si era preso assieme anche il grassone per togliere almeno questa croce, è arrivato a Parigi. Come ci si doveva aspettare, c'è stata al Ministero della Guerra una scenata selvaggia perché lui non era andato in Vandea in obbedienza all'ordine ricevuto. Naturalmente Napoleone ha di nuovo parlato dei suoi progetti italiani e solo per sbarazzarsi di lui il Ministro della Guerra lo mandò alla frontiera italiana. Ma come ispettore, di affidargli il comando in capo non si parlò neppure. Napoleone partì, la maggior parte dei generali sul fronte del sud non vollero neppure riceverlo o gli fecero sapere che non doveva immischiarsi nei comandi di altri ufficiali. Poi si prese la malaria e se ne tornò a Parigi con la faccia gialla e con l'uniforme in pessimo stato. Quando ricomparve al Ministero della Guerra, il ministro ebbe un accesso di collera e lo mise alla porta. Da principio Napoleone ad ogni primo del mese riceveva almeno metà dello stipendio. In seguito fu semplicemente dimesso dall'esercito, senza pensione. Una situazione terribile. Di che cosa viva adesso non sappiamo bene. Con l'orologio di suo padre che impegnò ha potuto vivere forse 3 giorni. Ha costretto Luigi ad arruolarsi perché non era più in grado di sostentarlo. Saltuariamente Napoleone fa un po' di lavoro straordinario al Ministero della Guerra, disegna delle carte militari e si rovina gli occhi. Molti affanni gli sono stati procurati dai suoi calzoni sdruciti perché il viaggio in Italia ha dato il colpo di grazia alla sua misera uniforme e lui ha bensì cercato di rammendarsi i calzoni da sé, ma i rammendi si scuciano sempre. Naturalmente ha fatto una domanda scritta perché gli sia data una nuova divisa, ma a un generale dimesso dal servizio lo Stato non accorda uniformi. Al colmo della disperazione si è rivolto là dove accorrono tutti coloro che vogliono ottenere qualche cosa, alla Chaumière, la casa della bella signora Tallien. Noi abbiamo adesso un governo che si chiama il direttorio e che è retto da 5 direttori, ma tra questi 5 direttori uno soltanto, così almeno afferma Giuseppe, conta veramente qualche cosa ed è Barrà. Qualunque cosa succeda nel nostro paese, ecco che viene a galla Barrà, come un pugno di sudiciume nell'acqua del porto, penso io. Ma forse è sconveniente parlare in questo modo di un capo supremo dello Stato, di uno dei 5 capi del nostro Stato. Questo Barrà è nato conte, ma ciò non lo ha affatto danneggiato perché ha saputo diventare, al momento giusto, un fanatico giacobino. Poi, insieme con Tallien e con un deputato che si chiama Fouché, ha rovesciato Robespierre e ha così salvato la Repubblica dal tiranno. Da allora si è trasferito in un appartamento ufficiale al Palazzo del Lussemburgo ed è diventato uno dei 5 direttori. Un capo di Stato deve ricevere tutti i personaggi importanti e siccome Barrà non ha moglie, ha pregato Madame Tallien di aprire ogni giorno nelle ore pomeridiane la propria casa ai suoi ospiti e a quelli della Repubblica Francese, che poi sono tutt'uno. Un corrispondente d'affari di Stefano ci ha detto che in casa di Madame Tallien scorrono veri fiumi di champagne e che le sue sale brulicano di arricchiti di guerra e di speculatori sulle case, i quali comprano a buon mercato i palazzi nobiliari confiscati dal governo e poi li rivendono a prezzi altissimi ai nuovi ricchi. Là si possono anche incontrare delle donne molto interessanti, amiche tutte di Madame Tallien, ma le donne più belle sono la stessa Tallien e Giuseppina di Beauharnais. Madame di Beauharnais è l'amante di Barrà e porta sempre un nastro rosso intorno al collo per far sapere che è parente di una vittima della ghigliottina. Oggi questo non è più vergogna, anzi è reputato molto elegante. E questa Giuseppina, infatti, è la vedova di quel generale di Beauharnais che fu ghigliottinato ed è perciò una ex contessa. Mamma ha domandato all'amico di Stefano se oggidì non ci sono proprio più delle donne oneste a Parigi. E l'amico di Stefano ha risposto: «Certo che ce n'è, ma sono molto care». E poi ha riso molto. E subito mamma mi ha pregata ad andarle a prendere un bicchiere d'acqua in cucina. Napoleone, dunque, un pomeriggio, fece la sua comparsa dalle signore Tallien e Beauharnais e si presentò. Tanto l'una che l'altra trovarono atroce che il ministro della guerra non gli volesse dare un comando in capo né un nuovo paio di calzoni e promisero che gli avrebbero procurato almeno i calzoni nuovi, ma gli dissero anche che doveva cambiare il suo nome. Allora Napoleone si mise subito a tavolino e scrisse a Giuseppe: «Mi sono risolto a cambiare il mio nome e ti consiglio di fare lo stesso. A Parigi nessuno riesce a pronunciare Buonaparte. Io ormai mi chiamo Bonaparte e Napoleon invece di Napoleone. Ti prego di scrivere così l'indirizzo delle mie lettere e di comunicare la mia risoluzione a tutta la famiglia. Noi siamo cittadini francesi e io voglio scrivere nel libro della storia come mio nome un nome francese. Dunque, non è più Buonaparte, ma Bonaparte. I suoi calzoni sono sdruciti, l'orologio di suo padre è impegnato, ma lui pensa ancora sempre di fare della storia mondiale». Naturalmente Giuseppe, scimmia com'è, ha subito assunto anche lui il nome di Bonaparte e così ha fatto Luciano, il quale ha ottenuto a Saint-Maximin un posto di gestore presso un magazzino militare e incomincia adesso a scrivere articoli politici. Invece Giuseppe fa ogni tanto qualche viaggio d'affari per Stefano, fa concludere dei buoni contratti e Stefano dice che con le provvigioni che gli spettano riesce a guadagnare bene. Ma Giuseppe non tollera assolutamente di essere considerato un commesso viaggiatore del ramo setterie. Da 2 mesi in qua non ricevo che rare lettere da Napoleone. A Giuseppe invece gli scrive un paio di volte la settimana. Io intanto ho potuto finalmente spedirgli il ritratto che poco prima della sua partenza mi aveva pregato di mandargli. È veramente orribile. Io non ho affatto un naso rincagnato come si vede in quel ritratto, ma il pittore s'era fatto pagare prima. Ho dovuto così prenderlo come era riuscito e l'ho mandato a Parigi. Napoleone non mi ha neppure ringraziata. Ormai le sue lettere non dicono più nulla. Incominciano sempre con un mia carissima e finiscono col dirmi che lui mi stringe al cuore. Non vi trovo mai una parola che accenni a quando ci dovremo sposare. Non una parola per ricordarmi che tra 2 mesi avrò 16 anni e che lui ancora ci pensa. Non una parola per dirmi che dovunque egli si trovi io sono e sarò sempre sua. Invece, nelle lettere che manda Giuseppe, scrive pagine e pagine delle signore eleganti che frequentano le sale di Madame Tallien. Ho potuto farmi un'idea della parte decisiva che le donne di gran classe possono avere nella vita di un uomo, dichiara con fervore Napoleone a suo fratello, donne di esperienza, donne intelligenti, donne del gran mondo. È incredibile quanto mi addolorino queste lettere che lui scrive a Giuseppe. La scorsa settimana Giulia si è risolta ad accompagnare Giuseppe in un viaggio d'affari piuttosto lungo e poiché era la prima volta che una delle sue figlie stava per intraprendere un vero viaggio, mamma ha trovato motivo per piangere disperatamente, tanto che Stefano ha pensato di mandarla per un mesetto da suo fratello, lo zio Somì, per svagarla un poco. Mamma ha riempito 7 valigie e io l'ho accompagnata alla carrozza di posta. Lo zio Somì abita a 4 ore di viaggio da Marsiglia. Nello stesso tempo Susanna ha scoperto che la sua salute è un po' scossa e non ha dato tregua a Stefano finché non se n'è partito con lei per una stazione balneare. Così è avvenuto che improvvisamente mi sono trovata sola in casa con Maria. La mia decisione fu presa un pomeriggio mentre me ne stavo con Maria nel padiglione del giardino. Le rose erano sfiorite da un pezzo e i rami e le fronde, netti come profili, si stagliavano sull'azzurro vitreo del cielo. Era una di quelle giornate di primo autunno, nelle quali si ha la sensazione precisa che qualche cosa sta per morire. E forse per questo non solo tutti i contorni, ma anche tutti i pensieri si delineano con assoluta precisa chiarezza. Improvvisamente lasciai cadere un tovagliuolo sul quale stavo ricamando il monogramma B. Devo andare a Parigi, dissi. So che è una pazzia e che i miei non me lo permetterebbero mai, ma devo andare a Parigi. Maria, che stava sgranando i piselli, non alzò neppure la testa. Se proprio devi andare a Parigi, ebbene, vacci. Io osservai macchinalmente uno scarabeo che avanzava lentamente sul piano della tavola, tra riflessi verdi e dorati. È semplicissimo, dissi io. Siamo noi due sole in casa. Potrei prendere la corriera per Parigi domattina. Denari ne hai abbastanza? Disse Maria e fece scoppiare tra i due pollici un grosso baccello di piselli. Il baccello esplose con un piccolo schiocco. Lo scarabeo continuò ad avanzare imperturbabile sulla tavola. Potranno bastare, credo, per il viaggio di andata, purché prenda per non più di 2 notti una camera d'albergo. Le altre 2 notti le potrò anche passare nella mescita della stazione di posta. Credo che ci sarà qualche panca. E forse un divano in queste sale d'aspetto. Credevo che avessi risparmiato di più, disse Maria. E per la prima volta alzò gli occhi. Là, sotto le camicie da notte, nel tuo cassettone. Io scossi il capo. No, ho prestato una certa somma a qualcuno. E come pernotterai a Parigi? Lo scarabeo aveva raggiunto l'orlo estremo della tavola. Lo sollevai, lo girai delicatamente e stetti a guardare come iniziasse il suo viaggio di ritorno. A Parigi? Riflettei. Già, non ci avevo pensato. È una cosa importante, non è vero? Avete promesso a tua madre di aspettare a sposarvi finché tu compivi 16 anni e tu invece adesso vorresti andare a Parigi. Maria, se non parto adesso potrebbe essere poi troppo tardi e forse non si farà neppure più il matrimonio, mi scappò detto. Per la prima volta avevo espresso ciò che fino a quel momento non avevo neppure osato pensare. I baccelli di Maria schioccavano. Come si chiama lei? Si informò. Mi strinsi nelle spalle, non lo so esattamente, forse è la Tayenne, forse è quell'altra, l'amante di Barra, si chiama Giuseppina, è una ex contessa, non so nulla di preciso. Maria, tu non devi pensare male di lui, è tanto tempo che non mi vede più, quando mi rivedrà, allora. Sì, va a Parigi, disse Maria, potrai passare le prime notti da mia sorella, poi si vedrà. Oh sì, poi si vedrà, dissi io e mi levai. Ora vado in città a informarmi a che ora parte la corriera di domani. Deposi lo scarabeo sull'erba. La sera riempii una valigia, poiché tutta la famiglia era fuori, non ne trovai che una molto vecchia e malconcia. Vi ficcai dentro l'abito di seta azzurro che mi fu regalato per il giorno delle nozze di Giulia. Lo indosserò quando andrò in casa di Madame Tallien per rivedere lui, pensai. La mattina presto Maria mi accompagnò alla vettura di posta. Come trasognata, percorsi la via verso la città, a me tanto familiare. Ero come rapita in un sogno. In un sogno tanto bello perché immaginavo di fare qualche cosa di giusto. All'ultimo momento Maria mi diede un grosso medaglione d'oro. Non ho denaro perché il mio salario lo mando sempre al mio piccolo Pierre, ma prendi il medaglione, è d'oro vero. Me l'ha dato tua madre il giorno che ho cessato di allattarti. Potrai venderlo senza difficoltà, Eugenia. Venderlo? Domandai stupita. E perché? Per procurarti il denaro del ritorno, disse Maria. E si voltò di colpo dall'altra parte. Non voleva veder partire la corriera.